Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Calcio. Sudore, passione, tecnica, temperamento. Le urla dei tifosi, la tensione delle sfide più dure, i colori delle bandiere, il profumo dell'erba. Sono tante le cose che rendono unico lo sport più popolare del vecchio continente. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati, in fin dei conti, può essere rappresentata da due feticci del mondo del calcio: gli scarpini e la maglia. I due personaggi di oggi sono accomunati da una maglietta rossa. Il rosso dell'inferno, dei Red Devils, per dirla all'inglese. Sulle spalle, il numero 7. Ci troviamo a Londra. È il 25 gennaio 1995. Nello stadio di Selhurst Park, il Crystal Palace, allenato da Peter Taylor, affronta i campioni in carica del Manchester United, guidati da Sir Alex Ferguson. Now, temperature's rising and out comes the red card. There's the morning headline. Eric Cantona. Il Manchester United in quegli anni è praticamente invincibile in campionato. Grazie a giocatori come Ryan Giggs, Paul Ince, il neo acquisto Andy Cole, il portiere Peter Schmeichel, i Red Devils sono da tempo la squadra da battere in Premier League. Tuttavia, anche in quel 1994-95, in cui ad insidiare il Manchester c'è il Blackburn di Alan Shearer, il vero valore aggiunto dei Red Devils è un altro. Maglia numero 7, colletto alzato, aria spavalda e tracotante, piede di velluto. Signori e signore, Eric Cantona, The King. Ho sempre avuto un feeling particolare con i tifosi del Manchester. Per tutto il tempo della mia permanenza lì, non hanno mai smesso un solo minuto di cantare il mio nome. Mai. Quel 25 gennaio, però, Cantona non è in serata, come tutta la squadra. Qualcosa non gira. Ma bisogna vincere, altrimenti si rischia di concedere troppo terreno al Blackburn. Su Cantona è stato messo in marcatura un difensore arcigno, uno che non fa troppi complimenti, che fa legna, che sa usare il randello quando necessario. Dopo 48 minuti, con il risultato ancora sullo 0-0, Cantona perde la pazienza. Rinvio lungo di Peter Schmeichel. La palla rimbalza. E attenzione, Cantona ha colpito Shaw. Attorno al francese si scatena un parapiglia. Un banale fallo di reazione. Shaw tira una volta di troppo la maglia di Cantona, che reagisce con un calcio a palla lontana. Il guardalinee segnala il fallo. Scatta il cartellino rosso. Il campione francese non è nuovo a questo genere di imprese. Prima di proseguire con i fatti di quel 25 gennaio 1995 allora, facciamo un passo indietro a scoprire chi è l'uomo che indossa quella sera la maglia numero 7 dei Red Devils. Sul piano tecnico, il profilo di Eric Cantona è quello della classica seconda punta moderna. Forte fisicamente, piede destro delizioso e sinistro da non buttare, letale sulle punizioni dal limite, visione di gioco illuminante, il francese ama giocare al fianco di un centravanti puro, in grado di valorizzarne le intuizioni fulminee. Inoltre, il suo grande temperamento lo fa esaltare nella lotta. Quando sul campo infuria la battaglia, Eric non si tira indietro e prende per mano i suoi compagni. Per fotografare Eric Cantona e il suo temperamento, si potrebbe partire da questa celeberrima dichiarazione che The King rilascia nel 1988. Penso che il CT della nazionale francese Henri Michel sia semplicemente un sacco di merda. Ecco tutto. Ha solo 22 anni, lui che è nato a Marsiglia nel 1966, ma ha già un carattere fortissimo e spinoso. In quell'anno, Cantona viene acquistato dall'Olympique Marsiglia per una cifra molto elevata. La società punta tutto su di lui, ma la sua attitudine irruente lo mette spesso in difficoltà. Come quando, durante una semplice amichevole, protesta per essere stato sostituito gettando la maglia addosso all'allenatore. O quando, come abbiamo sentito, insulta l'allenatore della nazionale, Henri Michel, reo di non riservargli le giuste attenzioni. Il tecnico risponde così agli insulti del campione di Marsiglia. Tristesse, oui, parce que je pense que c'est... Beh, provo tristezza per quello che ha detto Cantona. Penso che siano parole gravi per l'intero movimento calcistico francese e credo che la federazione prenderà provvedimenti. Come dice Henri Michel, arrivano i provvedimenti disciplinari e sono solo i primi di una lunga serie per il calciatore francese. In questo caso, viene allontanato dalle competizioni internazionali a tempo indeterminato. Gli anni successivi sono una pioggia ininterrotta di gol e di bravate, sempre ai limiti e anche oltre, cambiando continuamente squadra alla ricerca di una tranquillità che non riesce a raggiungere. Eh sì, perché Cantona è un calciatore particolare. Animo da bohémien, accanto alla carriera sportiva, coltiva la passione per l'arte. Dipinge, realizza sculture, compra opere di giovani pittori francesi, colleziona quadri e disegni. Non accetta mai compromessi. Io cerco di essere me stesso, sempre. Agisco solo per passione. Quando la passione mi abbandona, devo dedicarmi ad altro. Un uomo istintivo, passionale, il francese, che si vede costretto a girare la Francia a causa del suo temperamento. Arriva prima a Bordeaux, poi a Montpellier. Qui viene squalificato per aver colpito con un calcio in faccia un suo compagno di squadra. Tornato a Marsiglia, riesce a litigare con entrambi gli allenatori che si avvicendano sulla panchina della sua squadra, Franz Beckenbauer prima e Raymond Goethal poi. Viene infine ceduto al Nîmes. Qui i suoi eccessi raggiungono il punto più alto e gli costano caro. Ma come spesso accade quando entra in gioco il destino, un evento negativo gli procura una svolta determinante per la sua vita. Mi pare fosse il dicembre del 91. Durante un match di campionato, ero particolarmente teso e nervoso. A peggiorare le cose, c'era un arbitro completamente incompetente. All'ennesima decisione sbagliata, purtroppo, non ci ho visto più. Eric Cantona viene ammonito, si gira di scatto e lancia la palla addosso all'arbitro. Poi lo aggredisce. L'arbitro lo espelle. La decisione del Tribunale Sportivo è di sospendere Eric Cantona da ogni tipo di attività calcistica per un mese. La giustizia sportiva è incredibilmente clemente. Un mese. Ma Cantona non ci sta e in aula, davanti ai giudici, esprime il proprio disappunto. Gli ho semplicemente detto in faccia quello che pensavo, e cioè che sono degli idioti. Tutto qui. La squalifica viene portata a 3 mesi. Cantona annuncia il proprio ritiro dal calcio giocato. Del resto, l'istrionismo, la battuta pronta e le capacità comunicative non sono mai mancate a Eric Cantona. Il mondo dello spettacolo sembra la sua destinazione naturale. È il 1991. Per riportare Cantona al calcio è necessario l'intervento di uno dei grandi personaggi dello sport transalpino, Michel Platini. Penso che Eric Cantona sia il più bravo giocatore francese in attività in questo momento. È assurdo che si ritiri a 25 anni. Stiamo sprecando un patrimonio. È grazie a Platini che Cantona arriva in Inghilterra. Prima a Leeds, dove sostiene un provino e viene immediatamente messo in prima squadra. Cambiare aria fa bene al francese, che sembra placare i suoi bollenti spiriti. Segnando 15 reti e distribuendo assist a pioggia, Cantona porta il Leeds a vincere il titolo. Nel novembre 1992, Alex Ferguson riesce a portarlo a Manchester per 1,5 milioni di sterline. I tifosi del Leeds vanno in rivolta. L'Old Trafford ha il suo re. In realtà il mio primo obiettivo di mercato era Hurst dello Sheffield. La trattativa non era andata in porto, così ho ripiegato su Cantona. Non mi sarei mai aspettato che quello sarebbe diventato l'acquisto più importante per i successivi 5 anni. Cantona, nel Manchester United, totalizzerà 144 presenze e 64 gol. Vincerà 4 campionati inglesi, 2 Coppe d'Inghilterra, 4 Community Shield, 2 titoli di miglior giocatore dell'anno. I tifosi dell'Old Trafford sono incantati dal suo carisma, dal suo estro, dalla sua personalità. Eric ha trovato finalmente il suo palcoscenico, fino a quel 25 gennaio 1995. Cantona è appena stato espulso. Dopo un breve parapiglia in campo, il giocatore francese si avvia verso gli spogliatoi. Cammina a bordo campo. Gli stadi inglesi sono molto diversi da quelli italiani. Sconfitto il fenomeno degli hooligans, gli impianti britannici non hanno più reti di sicurezza che dividano il campo dagli spalti. I giocatori non hanno bisogno di protezione dai tifosi. Il calcio è tornato ad essere un'esperienza pacifica. Quella sera però forse ci sarebbe bisogno di reti in grado di proteggere i tifosi dai calciatori. Ehi, ma che succede? C'è una rissa tra Cantona ed alcuni tifosi. Sta succedendo qualcosa. Un tifoso del Crystal Palace, Matthew Simmons, insulta Cantona. Forse gli tira anche un bicchiere di tè. Il francese perde completamente le staffe. Poggia un piede sul muretto che lo separa dalla tribuna. Con l'altro si lancia in un colpo da kung fu contro il petto del tifoso. Poi gli salta addosso e cerca di colpirlo con una raffica di pugni. I giocatori del Manchester e altri tifosi dividono i due uomini. Dalla panchina, Alex Ferguson osserva preoccupato la scena. È stato un lampo di follia, rapidissimo. Io non so bene cosa gli abbia attraversato la testa. Io ho realizzato subito le conseguenze di ciò che aveva appena fatto. Le conseguenze ci saranno e saranno pesanti. Noi le vedremo in seguito però, perché adesso poggiamo rapidamente il nostro sguardo sul secondo personaggio di oggi, che è presente quella sera a Londra al Selhurst Park. È in panchina accanto ad Alex Ferguson. Ha solo 19 anni e non sa che ciò che ha appena visto di fatto gli cambierà la vita. Scopriremo chi è tra poco, qui a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati a Londra. È il 25 gennaio 1995. Durante il match di Premier League tra Crystal Palace e Manchester United, il capitano dei Red Devils, Eric Cantona, è stato espulso e, lasciando il campo, ha aggredito con un calcio da kung fu un tifoso della squadra avversaria che l'aveva insultato. Ne nasce una rissa, un parapiglia. Eric viene allontanato dal campo. Si profila per lui una lunga squalifica. Dalla panchina dei Red Devils ha assistito alla scena un giovane talento di 19 anni che ancora non ha fatto il proprio esordio in Premier League. Ha esordito in Europa, in Champions, dove ha addirittura già realizzato un gol. Ma Ferguson non lo vuole bruciare e lo utilizza con il contagocce. Ha anche pianificato di mandarlo in prestito nelle settimane successive nella piccola squadra del Preston North End. Il suo nome è David Beckham. David Beckham. Che Beckham fosse un predestinato si era capito già da questo gol realizzato all'esordio in Champions League contro il Galatasaray nel dicembre del 1994. Il calciatore inglese è nato nel 75 a Londra. È entrato nelle giovanili del Manchester, la squadra per cui ha sempre tifato, nel 1991, a 16 anni. Ha fatto parte della squadra giovanile fino al 1993, anno in cui entra in prima squadra, iniziando a farsi la gavetta come riserva. Nel 1994, la grande occasione dell'esordio in Champions League. Ferguson lo considera uno dei giovani più dotati, forse il più forte in assoluto. Di fatto, David è la riserva di Eric Cantona. Osservarlo giocare è importantissimo per David, che sogna un giorno di poter indossare la sua maglia numero 7. Eric era un idolo per tutti noi. Era il re dell'Old Trafford e tutti noi dipendevamo da lui. Aveva un carisma incredibile. Anche secondo l'allenatore Alex Ferguson, il ruolo di Cantona per i giovani giocatori è assolutamente fondamentale. Eric ha un'importanza fondamentale per la crescita dei nostri nuovi giocatori. È sempre stato un modello di professionalità e trasmette molta gioia ai giovani che si allenano con lui. Così, per David, quell'episodio paradossalmente rappresenta la grande occasione. Può finalmente dimostrare quello che vale e può farlo prendendo il posto del grande re dell'Old Trafford. È stata una circostanza spiacevole e piacevole al tempo stesso. Da un lato ero pietrificato per quello che era successo a Eric. Dall'altro, dopo pochi giorni, quando arrivò la squalifica, capì che si trattava della mia grande occasione. La squalifica arriva, 9 mesi. Cantona rientrerà solo ad ottobre. Beckham viene mandato in prestito alla squadra del Preston North End, perché gli accordi erano già stati presi. Dopo 2 mesi viene richiamato alla base. Il 2 aprile esordisce in Premier League contro il Leeds. L'Old Trafford lo guarda con speranza e diffidenza, che si trasformano subito in ammirazione. Quel ragazzino di quasi 20 anni crossa e lancia come nessun altro. La rincorsa al Blackburn, che nel frattempo ha preso il largo, può proseguire e Cantona può attendere con più serenità la fine della sua squalifica. È nata una stella. Purtroppo non riuscimmo a raggiungere il Blackburn. Il titolo ci sfuggì all'ultima giornata. Per la prima volta dopo anni senza Cantona, al Manchester era sfuggito il titolo. Ma ero soddisfatto di me. E ci saremmo rifatti con gli interessi negli anni successivi. In quei mesi di stop, Eric Cantona continua ad allenarsi. Lo fa duramente. Ma 9 mesi senza calcio compromettono il suo ritmo partita. Durante i tanti mesi di squalifica, il giocatore torna in Francia e partecipa tra l'altro a una commedia dal titolo Le Bonheur est dans le Pré. Si rincorrono varie voci secondo le quali il giocatore sembra voglia lasciare la squadra. Destinazione l'Inter, appena acquistata da Massimo Moratti. Con i nerazzurri Eric ha contatti frequentissimi, ma alla fine l'allenatore Alex Ferguson lo convince a restare. Mi lusinga moltissimo l'interesse di Moratti e di una società come l'Inter. È vero, ci siamo sentiti spesso in quel periodo, ma alla fine ho scelto di rimanere perché il Manchester è come una moglie che si ama. Devi rimanergli fedele. Poi, quando non lo sarà più, sarà tutto un altro discorso. A fine stagione Ferguson non cede Cantona, ma si libera di altri pezzi pregiati della squadra. Partono Ince, Kanchelskis, Hughes. Ferguson vuole puntare sui giovani, su David Beckham in particolare, e sul ritorno di Eric Cantona. La stagione inizia male. Nella prima giornata di campionato, i Red Devils rimediano 3 sonori schiaffi dall'Aston Villa. I tifosi contestano la campagna acquisti in tono minore. Dura poco. Dalla settimana successiva, Beckham prende la guida della squadra e non la lascia più. Cross, punizioni, lanci, passaggi millimetrici. Beck non è ancora una star mediatica, ma è già un fenomeno in campo. Di lì a poco arriva anche la prima convocazione in nazionale. Eric Cantona rientra dopo 9 mesi il 1 ottobre 1995. Partita di campionato contro il Liverpool. I tifosi non smettono di cantare un solo minuto. Eric è un po' imballato, un po' statico, ma il piede, il carisma, la visione di gioco sono sempre quelle. Dopo soli 70 secondi, dal suo sinistro, che non è il piede preferito, nasce l'assist per l'1-0. Here's Cantona. Keane's gone to the far post. And Butt goes in! Cantona! Il Manchester però va sotto, 2-1. Così nel secondo tempo Andy Cole si procura un rigore. Il rigorista ora è David Beckham, ma ricede il posto al vecchio capitano. Breve rincorsa e 9 mesi dopo Cantona torna al gol, 2-2. So Cantona, 70 minutes into his comeback. Il pubblico dell'Old Trafford gli intona la Marsigliese. Per Cantona, mai amato al suo paese, è la soddisfazione maggiore. Cantona sembra ristabilito. Sembra. Perché dentro di lui qualcosa si è rotto. Scopriamo insieme cosa, tra poco, qui, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati sta seguendo le vicende intrecciate di due calciatori che hanno fatto la storia di uno dei più importanti club d'Europa, il Manchester United. Sono Eric Cantona, francese, soprannominato The King dai suoi tifosi, e David Beckham, straordinario talento inglese che sta cercando di ritagliarsi un posto nel cuore dell'Old Trafford, il leggendario stadio dei Red Devils. È il 1995. Cantona è appena rientrato da una lunga squalifica, maturata dopo aver stampato i tacchetti dei suoi scarpini sullo sterno di un tifoso. Beckham l'ha sostituito. Dopo il rientro, i due giocano insieme per il resto della stagione. 11 maggio 1996, Wembley. Si affrontano per la finale di FA Cup il Manchester United e il Liverpool. In Inghilterra la Coppa è tanto importante quanto il campionato, se non di più. Campionato che i Red Devils hanno già vinto. Tentano il double, la coppiata campionato e Coppa. Mancano 5 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Le due squadre sono sullo 0-0, si profilano i supplementari. C'è un calcio d'angolo per il Manchester. Sulla bandierina va David Beckham. Cantona raccoglie dal limite dell'area e scarica in rete uno straordinario tiro al volo. È il gol vittoria. Gary Pallister calling for it. James can only fist it. It comes for Cantona! Il francese e Beckham hanno guidato il Manchester alla conquista del double. Tutto sembra essere tornato come prima, se non meglio. Ma per Cantona la passione è fondamentale in tutto ciò che fa. E in questo caso è venuta meno. Così, all'inizio della stagione successiva, a soli 31 anni, l'annuncio shock, affidato a un freddo comunicato stampa. Ho giocato come professionista per 13 anni e ora desidero fare altre cose. Ho sempre pensato di lasciare sulla cresta dell'onda. E questo è il momento giusto. Auguro al Manchester un futuro di successi. La maglia del Manchester è rossa, splendida, affascinante. Non tutte le magliette dei Red Devils sono uguali, però. Ce n'è una in particolare, una su cui il destino ha impresso un marchio speciale. Questo segno ha la forma di un numero, il numero 7. Negli anni 60 era stato portato da George Best, tra i più fenomenali campioni britannici, pallone d'oro nel 1968. Poi da Eric Cantona. So che la maglia numero 7 del Manchester è molto particolare, ma non l'ho scelta apposta. Era quella lasciata libera da Brian Robson, che giocava quando sono arrivato io. Forse anche questo è un segno del destino. Dopo il ritiro del francese, la maglia passa sulle spalle di David Beckham. Per me è un onore vestire la maglia di Eric Cantona. Spero di riuscire a portarla nel migliore dei modi. Dopo l'addio di Beckham al Manchester, su cui tra poco vi racconteremo qualche dettaglio molto particolare, la maglia numero 7 passa a Cristiano Ronaldo, che in breve diviene un nuovo idolo dell'Old Trafford. Dopo essere arrivato, Ferguson mi ha chiesto quale numero di maglia volevo. Io ho detto 28. Non volevo pressioni o paragoni con campioni del passato come Best, Cantona o Beckham. Ma Ferguson mi ha detto, no, tu avrai la numero 7. Quella famosa maglia era un'ulteriore motivazione. Mentre Cantona si ritira dal calcio giocato e inizia una carriera d'attore che ha il punto più alto con Il mio amico Eric del 2009, scritto dal calciatore insieme a Ken Loach e diretto dallo stesso regista britannico, Beckham guida il Manchester laddove Cantona non era mai riuscito ad arrivare, la Champions League. Nella finale contro il Bayern Monaco, Beckham è stato il migliore in campo e poi autore dei due assist su calcio d'angolo per i gol con cui Sheringham e Solskjaer hanno ribaltato il risultato nei minuti di recupero da 0-1 a 2-1. Insomma, due carriere, quella di Cantona e di Beck, due maglie numero 7 per due vincenti, due uomini completamente diversi. Eccentrico, istrione, ma schivo nel privato, Cantona. Composto, elegante, ma divo e personaggio pubblico, David. Nel 1997 l'inglese inizia a uscire con Victoria Adams, una delle Spice Girls. Da quel momento inizia la costruzione del franchise Beckham, un'enorme macchina economica che intorno al personaggio, al suo appeal, alla sua mondanità, arriva a fruttare al giocatore quasi 30 milioni di euro all'anno tra sponsor e diritti d'immagine. If you wanna be my lover, you have got to be. La lunga esperienza al Manchester di David Beckham si conclude nel 2003. Fino a quell'anno lo Spice Boy, questo è il suo nuovo soprannome, regala alla squadra 7 campionati, 2 coppe nazionali, una Champions League, una coppa intercontinentale. Ma Alex Ferguson tollera sempre meno la crescente notorietà del giocatore, sempre più spesso sulle copertine delle riviste di gossip e di moda. Se di fatto si può dire che la carriera di un altro numero 7 del Manchester si avvia al tramonto per un uso, diciamo improprio, delle sue scarpe tacchettate, usate come arma verso un malcapitato tifoso avversario, l'utilizzo di scarpe da calcio per uno scopo diverso da quello per cui sono state create segna la fine del feeling tra Beckham e il Manchester. 13 febbraio 2003. Dopo una brutta sconfitta contro l'Arsenal in FA Cup, l'allenatore del Manchester, Alex Ferguson, si produce in una violenta sfuriata. Grida, urla, impreca. Trova un paio di scarpini su un tavolo, li prende, li scaglia. Uno di questi rimbalza sul muro e colpisce il sopracciglio di David Beckham. Due punti di sutura e rapporto compromesso. Qualche mese dopo, Beckham viene venduto al Real Madrid. Beckham e Cantona, due straordinari campioni che il destino ha fatto incrociare. Come spesso accade a destini incrociati, un fatto negativo per un uomo diventa l'occasione di una vita per un altro, che si trova al posto giusto, al momento giusto. Così è accaduto a David Beckham e al suo straordinario talento. Il resto l'hanno fatto la leggendaria maglia numero 7 del Manchester e le scarpe da calcio, usate senza pallone. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.